punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. I politici che vanno sui tetti dell'università, oggi anche Vendola, ieri Bersani. Fanno una cosa, secondo me, di dovere sociale, insomma, addirittura. Quella parte, naturalmente, per chi non ci sta, non ci sta. Ma partecipare alle lotte è un compito fondamentale della direzione politica. Trovo che in questi anni purtroppo se ne è persa l'abitudine, meno male che anche sulla spinta di un grande moto di giovani, la politica riscopre la piazza, la strada, i suoi luoghi deputati. Però mi scusi, senza il quale la politica diventa una pura amministrazione dell'esistenza. E la consueta illusione del postificio pubblico a spese del contribuente che viene spacciata per qualità della ricerca e futuro. E se i politici vanno sul tetto per questo, ci stiano per quello che mi riguarda. Fine equilibratissima della trasmissione di oggi. State sul tetto, che fate meno danni, datemi retta. State lì sul tetto, non scendete fino alla prossima primavera. Bene, grazie a tutti coloro a cui questa puntata equilibratissima è andata in onda. State sul tetto, non scendete, per favore. Cari ascoltatori, ancora una volta buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Punto a Capo. Ormai lo sapete, cerchiamo di percorrere la settimana con l'occhio, l'orecchio direi soprattutto, di Radio 24. Lo avete sentito dalle prime parole, le voci erano quelle di Bertinotti, del nostro Giuseppe Crociani, di Oscar Giannino, molto arrabbiato sul tema appunto della riforma prevista, sostenuta dal governo attraverso dunque il ministro Gelmini. Insomma, una vicenda complessa, molto tesa, che porta sui tetti studenti, politici e persino giornalisti. E allora iniziamo proprio dalla riforma dell'università, partendo naturalmente dalla cronaca. Nel giorno che doveva portare al voto finale sulla riforma, poi rimandato, la protesta di universitari e ricercatori conquista la scena. Le facoltà vengono occupate da Milano a Messina, ci sono presidi sui tetti delle sedi accademiche, i manifestanti mettono a segno rapide azioni simboliche. A Roma viene invaso brevemente il Colosseo e persino alla sede dell'EUR, del Ministero dell'Istruzione, compare uno striscione. A Torino tocca alla stazione di Porta Susa, poi alla Mole, a Padova alla Basilica del Santo, a Pisa la torre pendente, quindi alla stazione. Una studentessa spiega così i motivi della protesta. Quando si taglia fondi si sbaglia sempre, no? Tagli indiscriminati. La seconda questione sono i tanti precari che non verranno stabilizzati a livello di ricercatori. Nel complesso la protesta è pacifica, ma si segnalano alcuni episodi di tensione. A Torino scontri di fronte al Palazzo della Regione, a Firenze in 30 vengono denunciati per i tafferugli nella manifestazione contro la presenza del sottosegretario Daniela Santanchè in università. Scontri anche a Milano, nei pressi della stazione Loreto della metropolitana e in piazza Leonardo da Vinci. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ovviamente sono stati moltissimi questa settimana i pareri, le opinioni che si sono confrontate in questa grande piazza che di fatto è Radio 24. Molti anche gli interventi da parte degli ascoltatori, i contributi, le discussioni, sempre molto animate. Noi ricominciamo da Alessandro Milan che di buon mattino proprio su questo tema ospita Antonio Di Pietro. 24 mattino. L'intervista. Saluto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno, benvenuto Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, che ci fa sui tetti? Perché salire sui tetti? Per manifestare solidarietà a coloro che sono finiti sui tetti perché non li ascolta nessuno e soprattutto per far sapere all'opinione pubblica che questo provvedimento, questa legge di riforma dell'università che si sta facendo è un bluff perché non contiene fondi, non contiene riforma. E cosa può fare in un paese democratico una componente dell'opposizione se non appunto fare un'opposizione senza sconti? Però per esempio il ministro Gelmini oggi sul Corriere della Sera dice apriremo a per esempio e perché no all'emendamento dell'Italia dei Valori che vieta di chiamare nelle università i parenti fino al terzo grado. Discuteremo di questo e perché no? Perché vogliamo andare contro la parentopoli. Che ne pensa di questa apertura? Beh, innanzitutto bisogna vedere come apre, se a parole e se a fatti. Voglio ricordarvi che sono stati presentati 450 emendamenti e quando ti dà uno zuccherino e ti frega il sangue, non è che tu sei contento lo stesso. È un po' come la storia che quando si dice avevano organizzato 10 rapine e ne hanno fatto soltanto 5. Bocciatura netta, dunque, mentre parla di riforma perfettibile ma che introduce elementi importanti, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Noi pensiamo che questa riforma vada veramente approvata nei prossimi giorni, sarebbe veramente inaccettabile che per litigi interni la riforma cadesse. Questa è una riforma perfettibile, ma è una riforma che introduce alcuni elementi importanti, quali il premio, una governance più efficiente, e quindi noi veramente chiediamo a tutte le forze politiche di approvare nel più breve tempo possibile. Siamo partiti da Oscar Giannino, che l'abbiamo sentito arrabbiatissimo all'inizio di trasmissione. Adesso sentiamo qual è realmente il suo punto di vista. È una riforma che introduce criteri per la cui commissariamento, per esempio, degli atenei in rosso, delle nuove norme per i rettori e anche per l'abilitazione nazionale all'insegnamento. La mia idea è che molto del buono che c'era sia un po' perso per strada, perché la presa dei rettori e degli ordinari, come quella degli avvocati sull'ordinamento forense nelle aule parlamentari, è formidabile, devo ammetterlo, è formidabile. Ciò malgrado, mettere figure nuove nei senati accademici, nelle organi di gestione dell'università, non lasciando solo i professori, a me continua a sembrare una cosa positiva, ma il punto di fondo è diventato quello non solo dei tagli, confusi con i tagli alla ricerca, se mi permettete, quello dei ricercatori, di questa specie di terza fascia a metà tra l'insegnamento per far fronte a ciò che non fanno le altre due fasce, compito meritorio, ma naturalmente che ne ha reso il profilo molto diverso da facoltà a facoltà e insegnamento a insegnamento. E con questa figura un po' anomala, che ha finito per essere una specie di tappabuchi dell'università italiana in questi anni, e lo dico quindi solidarietà e sostegno, di fronte alla necessità introdotta nella riforma di fare un'interruzione rispetto ai contratti attuali e a dire rispetto ai ricercatori: guardate, vi diamo un nuovo contratto a tempo determinato da 3 a 5 anni seguiti da un contratto più triennale, dopodiché o voi prendete l'abilitazione, l'incarico da associato, oppure c'è la risoluzione del rapporto. Questo è stato uno dei punti di maggiore contrasto e lo è a tutt'oggi. Ragazzi, questa riforma vuole aiutarvi, non danneggiarvi. Questo è il messaggio che il ministro Gelmini lancia attraverso il web su YouTube. Naturalmente destinazione gli studenti che in questi giorni protestano in tutta Italia. Se la protesta ha scelto la rete per organizzare manifestazioni e flash mob, il ministro sceglie lo stesso mezzo per cercare di entrare in contatto con i giovani. Giovedì, nella tensione della giornata, persino il ministro ha votato per errore contro la sua riforma, contribuendo così a fare slittare il voto finale. L'appuntamento in aula non è dunque prima di martedì. Punto e a capo. L'emergenza rifiuti che il governo si trova ad affrontare in Campania, il crollo della Casa dei Gladiatori a Pompei, l'inchiesta che coinvolge Enave e Finmeccanica e ora anche le rivelazioni imbarazzanti sui rapporti Italia-USA annunciate da Wikileaks. Vicende apparentemente slegate che invece il governo italiano, in una nota ufficiale per bocca di uno dei suoi più importanti rappresentanti, riconduce ad un unico disegno volto, virgolettato, a colpire l'immagine dell'Italia sulla scena internazionale, chiuse le virgolette. La denuncia del complotto contro il nostro paese viene addirittura dal ministro degli esteri Franco Frattini. Il titolare della Farnesina ha preso la parola ieri durante l'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Le sue dichiarazioni sono state messe nero su bianco. Il ministro degli affari esteri Franco Frattini ha riferito nel comunicato ufficiale, ha parlato di vicende delicate che rappresentano il sintomo di strategie dirette a colpire l'immagine dell'Italia sulla scena internazionale, si legge nella nota, nella quale vengono poi elencati i 4 punti cardinali del complotto presunto contro l'Italia: attacco a Finmeccanica, diffusione ripetuta di immagini sui rifiuti di Napoli o sui crolli di Pompei, l'annunciata pubblicazione di rapporti riservati concernenti la politica degli Stati Uniti, con possibili ripercussioni negative anche per l'Italia. Un attacco concentrico, conclude la nota, contro il quale il governo invoca fermezza e determinazione. Punto e a capo. Dopo tanto fini, questa è stata la settimana di Mara Carfagna, che verso martedì-mercoledì era quasi un'eroina dell'opposizione e sembrava pronta a fare crollare il palazzo. Il ministro delle pari opportunità, ferita da attacchi personali, aveva chiesto la testa del coordinatore PDL in campagna Cosentino, aveva minacciato di andarsene e poi lo racconta lei stessa. Ho avuto un lungo colloquio con il presidente Berlusconi, che ringrazio infinitamente per la sua disponibilità e per la sua capacità di comprendere e di affrontare i problemi. Lieto fine per la Carfagna. Berlusconi sì che dà fiducia alle donne, ha detto la ministra per la seconda opportunità. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. Punto e a capo. Stiamo esaminando le vicende dell'euro e siamo moderatamente positivi. Ieri ho avuto colloqui con i colleghi, c'è un atteggiamento di collaborazione assoluta e anche per questo credo che possiamo dire che non dovremmo avere preoccupazioni per come l'Europa si è strutturata per superare questa crisi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso di una conferenza stampa ieri a Palazzo Chigi. Il punto su questa settimana ce lo fa Deborah Rosciani. Stiamo rivedendo una certa tensione sui mercati. L'epicentro è la questione irlandese, almeno nelle ultime due settimane è stato questo l'epicentro della così tensione che è ritornata sui mercati finanziari, la crisi del debito sovrano e il rischio di contagio, situazione che ha riportato appunto un clima piuttosto all'insegna della fibrillazione, del nervosismo fra gli investitori. La maggioranza dei paesi dell'Unione Europea e la Banca Centrale Europea sarebbero in pressing sul governo portoghese affinché chieda un piano di aiuti. Questa notizia è stata divulgata stamattina dall'edizione tedesca del Financial Times. Adesso vedo sulle agenzie una raffica di smentite sia da parte per esempio del portavoce tedesco sia da parte della stessa Banca Centrale Europea. Lo stesso Portogallo ha detto di non aver ricevuto nessun tipo di pressione di questo tipo. Barroso, e quindi dall'Unione Europea, il Presidente della Commissione Europea, ha detto che l'Unione Europea non ha suggerito al Portogallo alcunché. Saranno state poi smentite queste notizie per l'appunto, sarà che non è successo niente, di fatto stamattina le borse stanno scendendo di nuovo in maniera piuttosto forte, vedo che tra l'altro le vendite si stanno intensificando. Tra i trader è cominciata a circolare la notizia che Moody's fosse pronta ad abbassare il nostro rating, oltre a farlo su quello del debito sovrano di Spagna e Portogallo, anche l'Italia sembrava coinvolta appunto in una possibile riduzione di giudizio sul debito da parte di questa agenzia di rating. Moody's ha smentito seccamente che fosse pronta a questo, di fatto però già questo aveva creato di nuovo nervosismo. Insomma, quello di cui parliamo è solo nervosismo a quanto pare, grande speculazione che in ogni caso crea questa incertezza che poi coinvolge anche i piccoli risparmiatori, naturalmente, che stanno adesso alla finestra e non sanno bene che tipo di posizioni prendere. Va a chiudersi una settimana di incertezze e nervosismi sui mercati europei. Riflettori tutti puntati sull'Irlanda e sulla manovra Lacrime e Sangue, proposta mercoledì dal governo del Premier Brian Cowen. Una ricetta dal gusto senz'altro amaro per il paese, che dovrebbe però permettere all'ex tigre celtica di salvarsi dal tracollo, ricevendo gli aiuti di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, stimati intorno agli 85 miliardi di euro. Per avere la certezza dell'approvazione del testo in Parlamento bisognerà aspettare il 7 dicembre. E se gli irlandesi si preparano a tagli di posti di lavoro nel pubblico impiego, riduzione del salario minimo, aumento dell'IVA e delle tasse universitarie, nel resto del continente non mancano certo le preoccupazioni. In primis, quelle con cui gli investitori guardano alla volatilità dell'euro, che martedì ha toccato i minimi da oltre due mesi a quota 1,32 dollari, incertezza del cambio su cui pesano senz'altro le molte incognite legate alle crisi debitorie di alcuni paesi. Un'epidemia che minaccia di allargarsi andando a contagiare per primi il Portogallo e la Spagna. Quest'ultima reduce da un'asta semestrale che ha visto schizzare verso l'alto il rendimento del bond a 6 mesi, senza che venisse collocata neanche la quota minima dell'importo annunciato. Tengono invece i titoli di Stato italiani, che sebbene abbiano visto aumentare gli interessi, hanno mantenuto un buon rapporto domanda-offerta in linea con le ultime aste. In borsa, nel mirino degli investitori restano soprattutto le banche, le cui perdite sono alla base della crisi irlandese e hanno trascinato al ribasso i listini. Situazione che non ha mancato di farsi sentire a Milano, dove pesano in modo particolare i titoli degli istituti di credito. Atteso per domani invece il via libera UE-FMI, Fondo Monetario Internazionale, del prestito da 85 miliardi. La linea per uscire dalla crisi viene tracciata a Berlino da Angela Merkel. La linea, la cancelliera tedesca Angela Merkel l'ha ridetta a tarda sera dopo una conversazione telefonica con il presidente francese Nicolas Sarkozy. Rapida conclusione dei negoziati per i prestiti all'Irlanda, nessun raddoppio del fondo salva stati, infine il varo di un meccanismo di salvataggio post 2013 che sia più rigido. Sul primo punto il traguardo appare vicino. Domenica Europa ed FMI dovrebbero dare l'ok agli 85 miliardi di euro in prestiti per iniettare liquidità nelle ormai semivuote casse irlandesi. Ieri il premier Brian Cowen ha difeso in Parlamento la manovra lacrime e sangue e attende con ansia il voto del Doyle irlandese il 7 dicembre. Sulla fronte dei mercati ieri la Merkel ha provato a gettare acqua sul fuoco della crisi. Nessun partner dell'Eurozona avrà bisogno di una ristrutturazione del debito, ha detto, pronosticando per l'Europa un'uscita dalla crisi che la vedrà rafforzata. Intanto la Commissione europea smentiva un possibile raddoppio del fondo salva stati, lasciato intravedere dal governatore della banca centrale tedesca Axel Weber. Sempre da Bruxelles è giunto l'annuncio che all'inizio del 2011 partirà una nuova ondata di stress test che saranno più rigidi rispetto al passato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalla Germania a Bagheria, osservata con lo sguardo di sottotiro. Tempo fa Roberto Galullo vi aveva parlato di un architetto, Marina Marino, dell'ufficio tecnico del comune di Bagheria. Ovviamente siamo alle porte di Palermo. Un architetto che si opponeva alla trasformazione urbanistica dell'antico Palazzo delle Poste. Sentiamo la sua storia, sentiamo dove è andata a finire. Salve, dottoressa Marino, come sta? Bene, grazie. Allora, dove si trova lei in questo momento? Io in questo momento mi trovo negli Stati Uniti. No, non dica così. Sono trasferita qui e conto di stare qui un anno. Scusi, non è più a Bagheria dell'ufficio tecnico di Bagheria? No. E come mai? Sono andata via da Bagheria alla fine di ottobre dell'anno scorso. Alla fine di ottobre del 2009? E notti. Quatta quatta, zitta zitta, senza far sapere niente a nessuno. Come... Il lavoro che ho svolto non è stato mai urlato. In punta di piedi. Senta, sempre in punta di piedi. Esatto. Prima di passare al suo profilo odierno, che mi interessa moltissimo, che fine ha fatto quel Palazzo delle Poste Italiane? È diventato poi un centro commerciale o no? A quanto ne so, i lavori si stanno svolgendo, sì. Si stanno svolgendo per farlo diventare un centro commerciale? Sì. Quindi lei ha perso la sua battaglia? Ma sa, non era una battaglia mia. Forse in questo riconosco un errore generale, cioè quello di averlo trasformato in una battaglia non personale, ma mia, nel senso che è mia del mio ufficio. Lei però, voglio dire, era un cane da guardia della legalità, come dovrebbe essere ogni buon cittadino. Sì, mi hanno così definito. Che cosa non è andato per il verso giusto? Ma non è andato per il verso giusto il mio rapporto con la politica. Immagino. Io sono stata per 7 anni a Bagheria un dirigente di contratto. Certo. Pertanto dovevo... avere e avevo un rapporto naturalmente privilegiato con l'amministrazione che mi richiedeva la mia collaborazione, il mio lavoro. Certo. Ma era un rapporto di fiducia reciproco, se mi permette. Ma quello che le risulta, ma quello che le risulta in questo momento, questa trasformazione dell'ex Palazzo delle Poste Italiane, di proprietà, ripetiamo, della famiglia Lo Iacono, è ancora di proprietà della famiglia Lo Iacono, e quindi probabilmente, voglio dire, le ditte interessate saranno ancora delle ditte, chissà, forse ancora dubbi o no? Ma che fossero dubbie, mi permetta, non c'era un dubbio. Ah, ecco, ho capito. Non c'era un dubbio. non possiamo nasconderci dietro un... No, ma infatti la prefettura diceva, le ditte interessate... La prefettura ne parlava chiaramente. Esatto, ma oggi è ancora così? Noi non abbiamo mai basato la nostra valutazione su notizie giornalistiche. Certo. Sebbene, naturalmente, certo, non vivessimo sulla luna, ma abbiamo basato la nostra valutazione sulle invece informazioni prefettizie che hanno in questo senso per noi un valore. Ecco, dottoressa Marino, un'ultima domanda: ma lei se n'è andata o l'hanno cacciata? Entrambe le cose. Punto e a capo. E ora invece sentiamo insieme come ha letto la settimana il nostro Alessandro Milan. Naturalmente attraverso i sondaggi che vi propone ogni giorno a bianco o nero. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, i sondaggi della settimana. Lunedì 22 novembre, scuola, pagare di più gli insegnanti più bravi. Secondo voi è un criterio giusto? Sì 54%, no 46%. Martedì 23 novembre. Il Papa apre sul preservativo e non esclude la possibilità di dimissioni. Sono posizioni che vi stupiscono? Sì, 41%, no, 59%. Mercoledì 24 novembre. Violenza. Secondo voi la legge tutela abbastanza le donne? Sì, 23%, no, 77%. Giovedì 25 novembre. Rifiuti da Napoli. Il Nord dice no. Scelta giusta? Sì, 72%, no, 28%. Venerdì 26 novembre, canone RAI obbligatorio se paghi una bolletta elettrica, giusto? Canone RAI obbligatoria se paghi una bolletta elettrica, e con l'ultimo quesito della settimana, non vi sorprenderà, 28% i sì, ben 72% i no. Punto e a capo. E questa è stata senza dubbio anche la settimana che ha evocato veramente venti di guerra fredda. La Cina ha lanciato un monito a Stati Uniti e Corea del Sud sulle previste manovre militari congiunte che secondo Pechino saranno condotte nella sua zona economica esclusiva. Lo afferma l'agenzia Nuova Cina citando un comunicato del Ministero degli Affari Esteri di Pechino. La Corea del Nord intanto minaccia nuovi attacchi militari affermando che le manovre navali, quelle di Corea del Sud e Stati Uniti, stanno spingendo la regione sull'orlo della guerra. Pyongyang ha anche sparato alcuni colpi d'artiglieria, altri colpi d'artiglieria che sono stati uditi sull'isola di Yeonpyeong, in quella che, secondo Seoul, era però solo un'esercitazione. Nel frattempo, il presidente sudcoreano Lee Myung-bak ha nominato l'ex capo di Stato Maggiore Kim Kwang-jin nuovo ministro della difesa. Il suo predecessore, per essere sintetici, era stato silurato perché ritenuto troppo debole nella risposta all'attacco dei giorni scorsi. Ben altro clima, quello del giovedì, quello della festa, oltreoceano. Stati Uniti e Canada hanno festeggiato il Thanksgiving Day, dunque il giorno del ringraziamento, il giorno che evoca quello in cui i padri pellegrini, coloni sbarcati dalla Mayflower, celebrarono il primo raccolto. Il racconto di questa giornata particolare, soprattutto appunto per gli americani, è affidato naturalmente a Mario Platero. It's Thanksgiving Day and we're gathered round. Little children make a joyful sound. And there's no school and we get to play. And we're all thankful for this day. Except for the turkey. Il Thanksgiving, la festa del ringraziamento. Oggi è Thanksgiving in America. Si celebra sempre il quarto giovedì di novembre, e dunque oggi è il quarto giovedì di novembre. È una festa con tradizioni antiche, ma è soprattutto una festa che ormai è diventata laica, anche se le origini erano religiose, ed è una festa che ha lo stesso valore per tutti gli americani, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla loro religione, dalla loro cultura. La canzoncina che avete ascoltato è così, è più una filastrocca, ma è rappresentativa del tacchino, altro grande simbolo del Thanksgiving. E proprio ieri il presidente è stato impegnato, nonostante le grandi crisi internazionali, in uno degli eventi più importanti dei suoi doveri alla Casa Bianca, il perdono, l'atto di clemenza nei confronti del tacchino. Good morning. I have my two trusty assistants here, Malia and Sasha, for one of the most important duties that I carry out as president. Before everybody heads home for Thanksgiving, there is one official duty. Today I have the awesome responsibility of granting a presidential pardon to a pair of turkeys. In questo caso, eccezionalmente, i tacchini perdonati sono due, si chiamano Apple e Cider, vengono da una farm della California centrale, hanno 23 settimane, pesano circa 20 kg ciascuno. Beh, direi cerimonia forse un po' ipocrita, perché poi nella tavola imbandita del Thanksgiving i tacchini arrosto che vengono sacrificati in nome di questa festa sono ben 45 milioni. La festa però non è soltanto così una festa intimistica, ma è anche una festa che ha a New York e per tutta l'America che si collega con New York una grande, grandissima festa per strada. La parata di Macy's, Macy's sono i grandi magazzini sulla 34esima e hanno cominciato questa tradizione di organizzare una parata in onore del Thanksgiving, e questa parata viene trasmessa in diretta in tutta America, una parata di carri allestiti con cantanti famosi e una parata con dei grandi palloni che rappresentano personaggi mitici, da Spider-Man ai Puffi a qualunque altro personaggio dei cartoni animati che vi possa venire in mente, una parata per ragazzi. Sentiamo l'atmosfera che c'è oggi a New York su Central Park West, da dove la parata è partita. Ha iniziato la settimana da eroe, l'ha finita da indagato. Parliamo di José Mourinho, il più italiano degli allenatori spagnoli, anche se lui ovviamente è portoghese. Insomma, all'inizio della settimana l'Inter in grande difficoltà, il nome di Mourinho veniva evocato continuamente, poi le cose hanno preso una piega diversa. Antisportivo di sicuro, come chi perde apposta, e nei recenti mondiali di pallavolo in casa nostra abbiamo avuto nuovi molteplici esempi. In quel caso abbiamo dato la colpa alla formula un po' stupida. Qui invece si inchioda Mourinho, come sta tentando di fare anche l'UEFA, che ieri ha ufficialmente aperto la sua inchiesta. Si tenterà di dimostrare la condotta impropria di Mu, dei due espulsi Xavi Alonso e Sergio Ramos, dei messaggeri Casillas e Dudek. Come sia possibile trovare le prove della volontarietà non ne abbiamo la minima idea, dato che la tortura non è contemplata. Il Reale è sorpreso, però c'è un precedente. Novembre 2008, due giocatori del Lione, Juninho e Chris, si fecero ammonire nel match contro la Fiorentina per andare in squalifica nell'ultima partita della fase a gironi e tornare agli ottavi senza cartellini gialli a carico. In quell'occasione i due giocatori furono puniti con un'ammenda di 10.000 euro a testa. Probabile finisca così pure stavolta. Comunque tutti inchiodano Mourinho, compresi i giornali di casa sua, ma pochi aggiungono che pure su quella regola ci si potrebbe chiedere se non sia meglio restituire ai giocatori la verginità al termine della prima fase del torneo, cancellando le ammonizioni pregresse e con esse ogni tentazione. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, dal teatro del pallone, dal teatro del calcio a quello vero, e naturalmente lo sappiamo, l'abbiamo sentito raccontare spesso anche nei nostri appuntamenti dedicati alla cultura, questo non è un momento facile per il teatro, ma c'è uno spettacolo che comunque registra il tutto esaurito per più di un mese di repliche. Il grande classico della commedia, Rugantino, pensate, parte come ovvio da Roma, da oggi al Sistina, biglietti venduti fino a Natale, anche per il richiamo del protagonista Enrico Brignano. Lo ha intervistato per noi Elisabetta Fiorito. Non tanto perché l'hanno fatto illustri personaggi e attori prima di me, è proprio perché la storia fantastica, è un musical, è la commedia musicale per eccellenza, è quella più rappresentata, quindi la responsabilità è anche nei confronti di chi l'ha scritta, nei confronti dei miei genitori quando mi portarono per la prima volta a 12 anni a vedere questo spettacolo. C'è un po' di tutto, c'è cuore, c'è passione, c'è sentimento, c'è anche un senso di responsabilità anche nei confronti del mestiere, e oggi è legato alla cronaca, c'è anche una responsabilità legato anche alla condizione del lavoro degli altri, perché siamo tornati con l'orchestra dal vivo, altre 20 persone, Quindi siamo praticamente sul palcoscenico 80 persone e questo per me è di grande soddisfazione proprio per questo momento storico in cui il teatro e lo spettacolo in sé stanno vivendo un momento drammatico, insomma. È stato difficile entrare nei panni di Rugantino, soprattutto anche cantare, ballare, essere in scena in questo ruolo per Enrico Brignano? Beh, ma io già col canto e col ballo, ma insomma così come si può fare, già c'era nei miei spettacoli. La diversità è più che nel canto e nel ballo, è praticamente nelle vesti di un ruolo in prosa quasi, no? Abbiamo fatto un gioco di restauro fantastico nella scenografia che è originale, nelle coreografie che sono nuove di Gino Landi, rinverdite, abbiamo fatto un restauro anche a livello musicale, abbiamo fatto piccoli arrangiamenti, quindi chiaramente li ha fatti Armando Travaglioli in persona, che dirigerà lui stesso l'orchestra dal vivo. E poi abbiamo rigenerato la scenografia, i costumi, addirittura c'è un attore che indossa un pantalone che era di Aldo Fabrizi, e quindi c'è una sorta di soddisfazione da parte di tutti. Qual è la battuta di Rugantino che ti piace di più, Enrico? Roma Cesemo, aiutami tu, io non ti dico niente Roma, ma stasera c'ho bisogno di te, e te quando vuoi queste cose le combini bene. Sul fronte del cinema invece si fa serrato il confronto tra le pellicole che si divideranno da questo fine settimana la torta degli incassi, o almeno le fette più grosse. Nella stagione delle commedie record sono usciti La donna della mia vita con Alessandro Gassman, Luca Argentero, Stefania Sandrelli e il primo vero cinepanettone della stagione, A Natale mi sposo con Massimo Boldi. L'ho incontrato per noi Marta Cagnola. Il mio impegno da quando ho cominciato questa professione. Prima non facevo il cinema, facevo il cabaret e prima ancora suonavo la batteria, però durante il Natale era il compito di cercare di fare divertire il pubblico, o con la musica o con le battute al cabaret e poi con il cinema o con la televisione. Secondo me è un po' come una missione, deve uscire proprio la serenità e la sincerità di trasmettere un messaggio importante, almeno per un giorno all'anno dobbiamo essere felici tutti. Serenità che tu vuoi anche ricreare nel tuo gruppo di lavoro, sì, hai detto che è quasi come se fosse una compagnia teatrale riproposta in veste cinematografica. Beh sì, in effetti è così, siamo tutti amici, siamo tutti... abbiamo tutti l'unico scopo che è quello di fare un buon prodotto, di fare divertire il pubblico e ce la mettiamo tutta. Viviamo in un mondo che è anche un po' figlio di quegli anni 80 di cui tu hai parlato e che hai raccontato molto bene, e hai detto forse sarebbe il caso anche di rifare alcune pellicole per vedere come sono andati a finire. Gli Yuppies sono molto vicini e perciò credo che ci stia proprio dentro, sia un progetto sicuramente valido. Forse bisognerebbe farlo con gli stessi attori che avevano fatto gli anni 80 e questo forse è un problema. Forse. Ti senti un po' sociologo nel raccontare sempre l'Italia? Beh, in un certo senso io penso proprio di sì, anche perché io poi racconto l'Italia sempre in positivo ma in negativo, perché bisogna essere sempre ottimisti, nella vita bisogna essere ottimisti, bisogna sempre pensare al futuro, pensando che sia sempre migliore del passato. E con questo siamo davvero arrivati alla fine del nostro appuntamento, del nostro punto a capo della settimana. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, a tutti voi un saluto e naturalmente l'augurio di un ottimo fine settimana.